Bellobbe! Avanti! Graziano! Togli le luci! Forte! Bene! Scappa! Benemeda! Non c'è nessuno! No, non c'è nessuno, no! Non sente nessuno! E tu, Gio Maria, sarà occupata ancora! Eh beh, e cosa vuoi? Si sta facendo un riposino. Arrivate a quest'ora e il pigiolino se lo fa sempre. Meglio mi senti con questo. Sì, molto più forte. Tanto l'antennino. Ah, l'antennino è cambiato. Quello vuoi. Questo di più. Perché prima, dove era adesso? Sì, adesso. Io mi sta dal terrazzino, vai. Come lì, nella zona tua. Benissimo, wow, fortissimo, chiamata. Sì, quest'antennino è appena... Ma te... Ha ordinata. 8 euro. Ah, cioè... E mi è arrivato... Beh, è fatto bene, grazie. Quello là, già 6 mesi prima... Devo andare vicino alla finestra. Sì, è fatto bene, no, è una bomba. Sì, è un bijou. Vabbè. Sì, mancanza di altro. Conservalo, almeno si rompe una e c'è la... Vabbè, me lo uso in casa. Va bene, dai. Già sono qua in frequenza, dai. Chiama quando le vuoi, dai. Già sono in occhio. Già sono qua. Che mi sto facendo quei due piatti. Vabbè, dai. Buona piattata. Ok, a dopo, dai. Ciao. Leoncino. Leoncino. Leoncino, mi senti? Bello bene. Leoncino. Mi senti, Leoncino? Bello bene. Mi senti? Leoncino, ci sei? Ciao Marina! Hola! Tore, ci sei? Leoncino! Bello bene! Ciao Marina! Ciao Marina, uno, due, tre! Bello bene! Uno, tre, prova, mi senti, Leoncino? Leoncino, uno, mi senti? Gian Marino. Bello bene. Ciucucciù, ciupetto. ACC. Avanti. Non stai uscendo. Bello bene. Ciao grazie. Chi è? Avanti. Non ti sento. Bello bene. Gufo! Mi senti? Giù! E come mi senti? Con le orecchie! Meglio o peggio? Ascolto benissimo! Eia, anche io già ti sento peggio! Tu eri poco qua! No, sono appena arrivato io! Appena arrivi tu a domo, Pac! Eiu! Eiu! No, ti sei giù un altro, non so se da Natalino, boh! Boh, non lo so, grazie, non ho idea. Non ne ho idea. Con quest'antenino esce meglio, va? Sì, sì. Esce più bene. Finettine. Più meglio esce. Anche più lunghezza. Lo so. No, già esci bene. Come regolazione, come ho io? Non lo so. Sì. Lui. Luca Montanaro. Lui. Grazie. Dimmi. Dos. Mi lavo o non mi lavo? No, via valle per pure aumentare. Cosa hai fatto per te? Niente, grazie, non ho fatto niente. E allora già sei pulito, mica eri in uso. Sono in pari di tutta ta... Si vuole un suo brutto, ma stanno scherzando. Ma poi... mi ha voluto a te, si brusi... Brusi non... No. Ma c'è freddo, ti cade la sapore e te sei fottito. Si mangio tante. E fu tutto quello che sta dietro. E chi c'è Luca dentro? Quello è sempre in agguato, mio. Occhio! Sarrave la chiave, la liana del bagno. E poi ti rimontando rinforzati a chi ci basta buru. In ogni spillo ci passa. Occhio che ti fa la festa. E dici, mi illumi, avanti di bara, avanti di bara. Poi io ci commetto e ti ne va la saporetta, sei costretto a inchinarti. Ma se dite di gusto? All'ospedale a me mi fregavano. Se ho capo raccolga questo, sa! E mi va di giubbo, lo traocco. E ve la beffi, mi dici, chi bello, mi andate a te, a Pippo Sandai, a Pocciuru, tu, io dico, vai! Fai tu a posto mio, gli dici, li non mi vedo. Lui, c'è la saporetta se le calze. Aspetta, grazie, che vi faccio merenda, dai, ci sentiamo, già sono qua in ascolto, mangio qua. Copione, tu sei copione, buh. Sei un quest'antennino. Con le orecchie già ti sento. A volte più basso. Sì, adesso. Perché si è messo sopra il campanile, per quello che era sì. No, perché è più lunghetta questa l'antenna. Ah, più lunga te l'hai messa. Cosa stai facendo? Mangiando. Ma dove sto mangiando? Esci a farmi un caffè e me la mangio pure una vetta, se no lì ci la muffa la buio. Tanto paletta non c'è. Adesso che c'è per la carta d'identità, 27 euro, che obbedire deve andare. Perché adesso le fanno tutte piccole e devi pagare 27 euro. Come la patente, uguale, là. Perché c'è la mia nipote. Infatti. Adesso le fanno tutte così adesso. Sì, ma lei paga 27 perché 6 euro perché l'ha persa l'altra. Invece mia nipote ha pagato 22, se l'ha fatta nuova. Ah, così. Adesso le fanno tutti così piccoli. E guarda la patente, me l'ha fatta vedere, è precisa identica. E gli scade al 2027. La mia non mi ricordo che lo scade. L'ho fatta poco, da poco io. La mia mi pare che cade al 2022 o 2025. Ma date la fatti come a te si chi va, capi? Chi va te la fatti di mai il ballo della fatti? Allora, bella è. Il bianco e nero è. Lì non ti scade più, lì non scade più. Piccolino. L'hanno messo dentro la stufa. Ma chi è di un appoggio troppo dentro la stufa, capi? Abbassa la rimbossa è di dentro. Allora, aspetta allora. Dile dove se è sotto piano. E dile se ce l'ha la saporetta. E prestagliela tu la saporetta, grazie a me. E che faccio io? Tu mi puoi andare, raccontarti più bene e dare l'orario a che ora andare. Ah, è salito, perché è obbligato solo a salire, da servizio. Cosa avevi una bombetta attaccata? E allora frugo poi. Ah, è già vero. E poi non lo salta l'assessore, non lo salta figlio. E me l'ha portato sino a domicilio. Ah, cosa vuole ti ha portato? A pagare? No, a firmare per ritirare come me l'ha consegnato. Ah, cosa vuole ti ha consegnato? Una scatola, due scatoline per il telefono. Chiami! Mi sta bene. Ma la Vicenti! Fuori caccia sto l'accordo. Tu sa bene se sto in coperta, in caldo. Sto i piedi bollendo, che. E io invece a Cabaeva. Ah. E perché? Zappando sta? No, lavorando. E beh, zappando, non sta lavorando. Zappando? Ehi! Cazzo! Non è un lavoro, non è un lavoro zappando. Ma io non è un zappendino. Ehi, va bene. Io dico zappando, lavorando. Ah, ehi, ehi. Perché dico con Luca, con Luca Russo? No. Ah. Ancora là si è? No, va ancora là. Ah, cosa sta pensando? Blocchetti si è abicarrato. Ah, che marido. Sì, no. Portati in visita al bambino. Coraggio, ma... Ah, ecco. Riportati in visita ai ghisti, di nuovo che dà ragione. Sì, non andava a cogliere di nuovo. Busto! Allora, bene, ha fatto, sì, sì. Ciao, Marina. Dormito, sì. Chi è che ti ha telefonato? Mica non sei uscito, mi bello bene. Cosa? Non stai uscendo. Non sto uscendo. Niente, non stai uscendo. E accorsi, sì. Allora, spostati se non mi senti. E dilla forte. Aspetta un attimo che mi dici come mi senti. E va, se lo discuta. Aspetta, aspetta così, aspetta che là, aspetta con lo... Ciao Marina! Ciao! Ebbene, mi senti? Sento con le orecchie! Parla a vedere che ho messo il microfono! Va bene! Parla tu che ti ascolto io! Boh, ma le parole bisogna bugarti in lì! Spostati se non mi senti. Che ti sento, è per ascoltarti come ti sento da dentro il microfono. Ah, così è, ma il microfono mi senti. Babbo, non lo sapevo, Con questo, quando metto il microfono, col portatile, esci nel microfono, non nella radio. Non l'ho mai provato io. Ti sento nel... Adesso non sei uscito, Che ti sento dentro il microfono. Metti l'altro che è meglio, metti l'altro che è meglio. Senza microfono. Sparato metti che esci più bene. Senza il microfono palmare. Non ti ho capito, no? A tratti ti sento. A tratti mi senti. Esci a vedere, fammi vedere. Adesso è bello fatto. Chi senti adesso? Cosa? Ma tagliare la saporetta a Luca. Hai te. Dai, dai, stai bello, hai te. Ah, vai contento, Dono. Con un bisetto, Ida. Aspetta, ancora verrà un bizzetto. E a macchina lo fate i guriguri. E chi è che fa, chi è sta parlando? Con chi sta parlando, grazie? E la pei. Ma a me c'è, con me ce l'hai? Non l'ho sentito, è sparito adesso. Io cucciù. E sappiamo il caffè. Ora vedi, dolce mintata, Luca. Grazie, ma stai usando il microfonino. Elia, mi senti bene? Basta la pazzia. E prima non lo stavi usando, sempre lo stavi usando. Perché? Si allungo la mano, si allungo il microfono, si sviluppa sul telefono, si sviluppa. Ma ha giusto, ma allora lo stai usando o l'hai attaccato adesso? No, l'ho messo adesso a provare. Sì, ma non esci, beh. Sono io anch'io uguale, uguale identico. Vabbè, a frappè. Oh, dai, una merendina mi sto mangiando adesso, al cioccolato. Al centro c'è tutto il cioccolato. Ciao Luca! Ciao Luca! Oh, Pivona! Ciao Marina, mangiandosi! Chi è? Chi voleva, Bella Bey! Oh. Oh. Avanti, la porta aperta! Eia, avanti! Non so, ma non ricordo come si fa a farla. Non... adesso ci provo, ma non ci riesco. A... cioè, a fare la porta sì. Poi a fare il passaggio su WhatsApp, non lo so come si fa. Chissà, non me guidi. Capito mi hai, bella bei. Adesso l'ho levato il microfono. Brutto è. Adesso, ma c'è anche il bim. E bei, tabulana. L'ho trovato come mettere i numeri. È arrivata, già era già carica. L'ho spedito per forza. Bella bei, mangiando stai, ho dormito sì. Ciucu ciucu, a chi sei? Oh, siamo 27, mi bello bene. E chi c'è nella 27? Dove c'è? Ma allora lo devo attaccare. Se aspetti, vado a prenderlo. Grazie. Ehi, male mi senti così? Allora ti rubo un calabatto sul gusto. Allora anche l'altro è la stessa cosa, brutto è. Sì, escono così, escono, perché se non mi mettono. Ho cambiato la capsula lì. No, non è buono, intanto mi rompe le balle. Perché come lo allunga a parlare, un bel di voce si dà di voce a tutto. A meno che non lo aggancia a qualche posto. È lavorato, ti stava cercando che gli era caduta la saponetta. Gli ho lavato la schiena. Ehi ragazzi, sono che arrivi due, aggiungi se farà dell'altro buco. Aggiungi l'ultimo pezzo del pizzetto. A dopo, dai, grazie. Eia, ok, va bene, va bene. Cacca, tocca a me, bello, bambino. E ora, che stai che? Cacchino, cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Cacchino, cacchino. Ma lo sto tramodulando, chi era? Ma chi? Dimmi! La... il voi... che cosa vuoi fare? Non fa... ti alzano i pittiti da solo. Anche se non vuoi parlare che stai parlando da un'altra parte. Si attiva il PT. Ah, stai usando il microfonino ancora. Cosa era? Ah, sbagliando. Se quello... si attivi, non tocchi niente, lì si attiva senza toccare i PT. Cos'è? Non lo... meglio è senza il microfono. Un abisso c'è. Oh, già sta già arrivato. Mi ha fatto la svizzera. Menù. E scendi e con le frecce vai avanti, c'è scritto Vox, poi per disattivarlo schiacci il coso delle bande A e B e quello ti cambia cioè se lo vuoi attivare o disattivare. Attivato qua, cosa ne so? Aspetta, prova a parlare senza toccare il PTT. Mi senti? Guarda! Sì, il Vox è inserito, cioè. Il PTT lo stavi usando adesso, no? Non sono appoggiato sul tavolo. Ma dico, il PTT lo stai usando. E lui! Oh, lui ha attivato il Vox, Graziano. Grazie, se tu non premi il pulsante quando parli e vai in trasmissione da solo, vuol dire che c'è il Vox inserito. Allora era già inserito, mi senti? Dove? Toglilo, entra nel menu, fai menu, spaghetti alla carbonara, tu lui cosa vuoi? Spaghetti con le cozze, poi metti on e metti su vaffare. L'ho messo con il schiaccio menu. Adesso con le frecce vai fino alla parola Vox, alla voce Vox. Adesso lo sblocco, aspetta, perché l'ho bloccato e poi schiaccio menu, vado sulla voce Vox e metto on off, così, e poi di nuovo menu. Dovrebbe essere in off. Poi quando arrivi al Vox fai menu e si sposta la freccetta in off, metti. Dovrebbe essere in on adesso. Vabbè, adesso provo, va. Grazie, ma al ristorante si è andato a prendere il menù. Cos'è che c'era scritto per spostarlo? On, off e cosa? Dovresti averlo in on. On ci dovrebbe essere scritto. Tu ti devi spostare poi di nuovo con le frecce, menù, e vai e lo sposti in off. Sì, ma c'è scritto solo off o cosa vi qui? Dovrebbe esserci scritto on adesso. On, off, o uno o l'altro, ma dovresti averlo in on. Luca, Gekka! E se tu mi fa male? Sei gatto. Vai, impiccate la bestamera, vai, abbiamo voi. Fabio! Vabbè, grazie, è riuscito, ci sei a... Ma domani è papà. Adesso ci guardo. Adesso metto il telefono a caricare un po'. Ehi. No, Bippino, Vox! Aspetta, glielo dico io. Mari, dammi gli occhiali. Mettilo a zero. Deve essere a off. Ma se lo vuoi. Me adesso con le frecce fai 3, 2, off. E te lo puoi regolare, piccolo, in base alla distanza che lo vuoi usare. Si attiva o disattiva più in anticipo, più in ritardo, capito? Off devi mettere, ragazzi. La scendi con menu, una volta se ne poi con le frecce, una volta che è finito di nuovo col menu sali su e poi fai 7. Allora, te l'ho appena spiegato, tu una volta che arrivi a Vox, con menu scendi giù, poi con le frecce lo porti a 0, off. Una volta che l'hai portata off, di nuovo schiacci menu e poi fai exit, esci, lo fate un salto. Ecco, c'è scritto 4, col menu scendi, schiaccia menu, poi con le frecce lo porti in off. Una volta che l'hai portata in off con le frecce, schiacci di nuovo menu e poi fai exit. extra sotto a band, a band, banda, boh, vabbè, comunque già capito, banda, è uscito band. Ce l'ho fatto. Mi sei bruciato. Ho fatto un baracchino a te, su, vai. No, c'è proprio l'altro portatile. Adesso... A posto, dai, lascio. Ma ho notato che c'è anche molto meno di radio, è più forte. No, se a te che scendeva quando parlavo. E vuol dire era già così. Sicuramente Roger mi per fare la stessa cosa, vai su Roger, poi meno scendi, lo metti in on, poi di nuovo meno e fai extra. E c'è il bip. No, no, bip non è buio, ne l'ho rubato anche da quello là. È fastidioso perché lo senti anche tu. Oltre che lo sentono gli altri, ma anche tu. E vabbè. Beh, già vanno bene comunque. Già l'ho letto, se lo voglio si può mettere, ma ne l'ho levato. Sì, capito zio. No, già vanno bene perché grazie a questa radio. La batteria carica. Era il carico, il postino. Ma non doveva arrivare al 18? No, entro il 17 al 18, arrivo. Invece sei fortunato. Quando l'avevo fatto, ce l'avete? Sì, ma se ci si dà, già va più meglio quello. Ehi, solo che ormai tu hai si dà di busta, se non sei attento. Ma però devi mettere a potenza bassa. Che potenza bassa? Che ho guardato l'altro come si faceva. Allora già va bene, dai. All'altro, solo che io me ne dimentico di rigori. Quando non manovro, spesso, che si è andato tutto bene, lo furruggeggio, lo lascio lì e poi me ne dimentico, ecco così. E già ti credo, giallo. Non me ne ha poi non me ne ricordo. Quello vuol dire che ci stiamo diventando rimbambiti, o no? Mi intammiravo che prendevo un pezzo, lo guardavo il disegno e mi ricordavo com'era, capito? Io fra la gente sapevo quante si volevano, che ci voleva da 6, da 8, da... Avanti mi domandi tu, davanti voi, quante sapevi voi di Baffantravi di un Bacconi? Non me lo ricordo, se guardo nella gente lo so subito, Sì, fammi un paio di 100 chili di... ma un paio di chili di 100 euro. Perché se ne metti troppo non va bene, se ne metti di meno non va bene, devi sapere la quantità giusta e le distanze delle zappe e che tipo di ferro ci vuoi. Noi qui la gara uno sta per formarsi. Oggi Mari. E poi quando esci sul travaglio, a parte che bisogna veramente impianti elettrici, come fanno la stessa cosa. Se ne ha 30 quando stai imparando. Quello perché anche quello che gli piazza li vende. Chi c'è un altro e non bisogno dell'altro. E cura che è andata a piazzare le bortoncine. A me da Luca. Le bottoncine in piazza con lui si ripeti, vero Luca? Poi la prima cosa devi controllare sempre l'apertura della porta, il pavimento, se è a livello, se è a piombo, se è in piano. Vera la montagna, Maria, la montagna di Gozzo. Che segnale. Ma lui, dillo a Gattano come piazza i bottoncini. Una volta che tu lo metti nelle staffe, metti le unghie dei piedi sotto, vero? Lo regoli con quello. Come rispondi, no? Se fa da ricca. Guarda che affidamento a livello non ne devi mai fare, perché i livelli non sono mai perfetti. Una volta che tu hai cugnato e livellato un controtelaio, da poi Bavaru sicuro devi pigliare la mela e dargli un filo di piombata, con il piombo lo vedi se è perfetto, deve essere tocca e non tocca. E col piombo ti accorgi se il livello è buono o non è buono anche. Perché il piombo ha su che livello è. Va giù. Il piombo vuoi tutto a capo. Pizza Gian Maria piombo con questo. Un poco dritto dritto. No, non è piombo, non è... sui berli, sì. Tieni il guanto, dai, andate, ma ne fermo un po' di cagana. Sì, mezzo a sopra, arrivare a sopra, era già messo un livello. Sapeva poi sulla vera, ed è tutto fuori piombo. E io con il registro gliel'ho registrato. Giusto, giusto, è andato, ma già chiude già. Quando sopra va la battesima e alla base della briscia, quasi. Se non incassava neanche dentro il telaio, fussi qui all'angolo esterno del controtelaio, un bottoncino. E dunque era tutto fuori piombo. E beh, se oggi così mi tenete sopra la ghiaccia, ma dove andiamo? E deve essere tutta bara, lunga, tutta casa lunga. Femma, femma, che non sta, femma, tanto vuol dire a piombo. Sopra la capriccia. E se non va per lei di torno al controllaio, e posso vedere di là. Sì, ma io non so qui, non è possibile. Dico, come ci fa? Ti guarda, stai sbagliando, ti corre. E vedi che ti rubiacci tu, ma te, io non ti piaccio. Guardo, ti dico, non faccio neanche senti, da voi vengo e ti dico come ti ci piace. A posto, ti ha lavato la mangia, e poi andate a vedere. Ciao. Ehi, a che credo stai, senti, ma... Grazie! Ma che c'era Giulio? Sorry. Ho cambiato l'apparecchio, ci sentivo parlare, però sapevo che non ti sentivo a Giulio, no? Ciao Giù! Dai, io sto più avanti di Giandelli. Aspetta, Giovaria! Aspettalo. Giulio! Ma forse non mi sente. Io comino non lo sentivo, Sentivo solo a te, ho detto va a Giulio e poi mi senti. Grazie. Sì, va bene, avanti tu. Rucola! Sì, a Giulio, non lo sentivo bene. Ma lo sentivi lui a Giulio? Tu sei un po' frusciato, era. E io non sentivo niente. Perché ero con l'antennino, ho capito? Adesso ho messo l'altra antenna, questo già lo dovrei sentire bene. Sì, no, non mi sa che non c'è più. Ah, ma ha rifatto la graziale. Ehi. Ah, con quello stava parlando. Ragazzi, Già adesso è tutto a posto allora. Regolato vuole. Ah, vabbè, glielo fai lui, già lo sai fatto. Ah, ormai bruio. Io non ho mai toccato, ancora tanta la scatola. Sì, vabbè, è facile, pensavo fosse più difficile, ma è un gioco, dai. Poi, ovvio, ci sono altre impostazioni che non conosco, ma non mi interessa, che sono appunti. Non le conosco perché non ho letto manco il manuale. Il manuale, sai com'è? E giunge che c'è il grigio, caro compresi, non passi che c'è il grigio, vabbè. No, su per giù ho visto che Luca lo fa anche qualche volta, lo prende magari su per giù qualche cosa si capisce ugualmente, magari lo fa così e a me me l'ha fatto tutto Luca, io non ho capito il pumbo. Ma già è facile Giù Maria, quando comincia a praticarlo vabbè, allora provate, chiaro che riuscite a farlo come ci vuoi tu. Certo. Grazie a noi c'aveva il Vox attivato. E poi ti ha dato gente in via, strano. E poi gli ho detto, guarda che c'è il Vox attivo. Quella via a 4. E poi si sentiva strano, vabbè, comunque l'ha disattivato adesso. Ah, così è. Ah, c'hanno anche il Vox quelli. Ma vanno bene ugualmente, dai. Però qualche volta capita che sei lontano, almeno parli e si sentono ugualmente. Tu qui? Certo! E non capisci tu. Allora c'è il Vox inserito. infatti è più grande diventa, con quella battiera diventa più grande. E secondo come lo metti si rovescia. Se lo lasci dentro l'astuccio del caricabatterie pare da lì. No, quel microfono pare che c'è una cuba ne ha giocato. Già attento là. Tanto lo lascio lì su dove c'è quell'altro piccolino. E con questo sento meglio con questo, con l'antenna. Bello, dai, io che tutta un'altra cosa, è proprio bello, là. Mi pare sia l'unico che funziona bene tutto, è questo tipo, dai. Va bene. Ottimo, va benissimo. Va bene. Quello c'ha 8 fatti. Ma Massimo non conviene mai, grazie. Ma lo sa con 5 watt dove arrivi? Lascialo con 5 watt e va sempre bene. È normale, l'ho già visto, perché l'ho copiato da quell'altro, quello lì. Ed è uguale. No, l'altro è più basso. Quello con l'altro era più basso. Questo invece c'è 8 watt. Ma l'altro, il meccanismo, le scritte sono uguali, miglio di voglio dire. Anche tutto, il pulsante, tutta quella roba lì è precisa quello là. Praticamente quello che fai là lo fai qua, è uguale. Solo che... Va bene allora, ok, meglio così. Tranquillo allora, ecco, hai visto? Come senti che è bello, va? Andate se ne so. Tu è andato là a prendere la sua 50. Io mi ero sentato, avevo bussato un tangente. Sono tornato, non c'era più nessuno. Vabbè, ma chi c'è? Attraverso il teso che li loghi, cazzo, e lui non mi fa vedere che di chi dà. Disgraziato, sì. Che sei disparito, tu che dai, il PMR. E gli facevano una via accesa il PMR, capito? E Luca Cuffaro si è sentito. Luca, è troppo presari, sono fatti così, vero? Per il presari ci deve mandare i brugetti, come ci sono, cosa deve fare, capito? Così, che due impresari a vero, dai, così, pare che fare male impegnati. No, sono rilassato, ho mal di schiena, mi fa male anche il polso. Mamma mia, cara, sono in... Poveretto, ti viene nei dolori. Ma lui è giovane, fa movimenti strani, grazie, capito? Lui fa molto movimenti strani, e allora, no strani no, movimenti perfetti, capito? E allora è quello che si sente un po', capito? Lui li sente. Sta deciso. Ma Luca Cuffaro non usa saboretta, no? Lui usa l'altra questione, quel più scivoloso, capito? Che attira di più. Il pare di qua del monte. Certo. Poi gli abitanti a saporetta. Gli piace la saporetta. È abituata a tanta roba scivolosa. È così, tutta abitudine, capito? Luca, rilassarsi, almeno rispondi. Sto a parlare, metti il bocco. Non è aspetto, sono in fase di relax. Poi tra un po' prepareremo la cena. Così mangio e poi vado a casa, che mi devo fare un lavoretto anche. Devo chiudere un telefono. Telefono su Baffo. Così farò. Saluti Baggio, arenga. Pure, patata e funghi olive. Vabbè, Francesco, regga, saluti, vai. Sono buona, regga. Buona mia, Ranucci, cacca. Ma un cantante di mai di saluti, Francesco Renga. Pensate bene, Vallu. Ha detto se mangi la Renga i saluti. La parola se sta bene, una pizza. Cioè, buona, prima ne mangiamo un meglio. Allora, no, non mi piace più. Oh, Gio Maria, allora, chi sai, quando raggiù vista, la vista che sta nostra, va giù, gana di arenga. E sto andata alla strada, stradini. Però, maledizione, non è vista fumigata. Ah, così è. Rimane più fresca. Rimane più fresca, vista, non è affumicata. Non l'ha già paesata, con freddo. A te non ti piace, Graziano? Oh, calma. È una sua e me la mangio, ma non di più di tre o quattro. A tre. E chissà, non ti piace, no. Va, la tocca a me tutti. Io non l'ho aiutata, Gio Maria, ci ho pigliata così, ma pensava, e invece noi furono e di sta che rimane un pochino più croccante, chi c'è molta rotta, cucci. Oh, si cucina questa, io no, non mi so. No, è così. Ah, è così, è asciutta. La renga, quando non è affumicata, come si cucina? Oh, cosa si fa? Io non l'ho mai fatto. Si chiama Aringa, no Arenga. Arenga è un cantante. Poi suoi. Ma... Luca, se lo mangia, Francesco Renga. Non lo so, chiede a Mario. No, altro di no, figlio Mario. No, mai. La pasta già è buona. Ma ci vuole un po' di olio d'oliva. Non mi piace un po' fresca, non lo so, non è come quella che prendo io. Lo sai tu, bella pei. No, no. Quella affumicata ho mangiato. Ma molti anni fa, adesso da parecchio. La renga. No. Lei allora, ma Lorenza non le piace. Io l'ho mangiata vari anni fa, ma adesso sono da parecchio. Però è buona, è buona. Quella affumicata, quella fresca no, non l'ho mai mangiata, della verità. Cioè, pari che la affumicata, Maria, quando la affumicata rimane asciutta, boh. La vita, boh, la tagliata pare fresca, dritto. Grazia, tu zimino di cammello mi hai mangiato, non hai? Ho detto, zimino di cammello mi hai mangiato, ne hai? No, cammello non è mai mangiato, ho mangiato zimino di bucca, di mucca, mi pare. E buh. È buono, tu mai hai mangiato lo zimino di cammello? No, lui, a te ti piace molto quello lì, Io l'ho mangiato, buona reddu, Anche la coppa del cammello arrosto, fatta a fette, buona rizza. Grazia, impara, Cercalo, grazia, e cucinatelo. Pensate, vero? Mi è venuto fuori, nella 27, Gio Maria. Oh, e vabbè. Oia. Se ti fa male. Che stanchezza, mamma, che brutto lavorare. Sì, vabbè. Lavorare si deve. Ah beh, tanto nessuno ti dà riga, se lo andi, se ti invece ho detto andare, nessuno ti dà riga, Uia. Vabbè, bisogna lavorare sì, anche se non ce ne voglia, ma devi andare lo stesso. Se non te ne zappi, dice quello, ui. A che andare sabato? Una guida, Lu. Tu rada della voce, Natali. Sì, non del tutto. Sono ancora... Deve essere qualcosa infiammato. Sicuramente. Oh, io. Non c'è mal di gola, ci mancava la voce. Devi fare aerosol, Natali. Aerosol con Clenil e soluzione fisiologica. A bocca a messa. Vedrai. Ne ho due macchinette per l'aerosol. Non ne hai? Sì, ne ho due. E fallo. Penso che lo dica mia moglie a vedere se... Se un busso qua. Sì. su WhatsApp. Oh yeah! Rilassa la me! Adesso! Tutto là, su, qua là! Ce l'ho! Ciao! E a domani! Ciao!